Sì, allora, beh, innanzitutto grazie di darci spazio. Vi chiamo da Torino, come avrete capito, mi sa che vi è già arrivata voce durante la giornata della seconda occupazione nel giro di una settimana a Torino nel quartiere Lucento, che è quello dove c'era l'Edera Squat, che è stata sgomberata il 3 ottobre scorso. Oggi abbiamo aperto una banca, un ex filiale Intesa San Paolo, che si trova più o meno a 150 metri. Finalmente abbiamo e luce sia. Anche noi abbiamo una banca adesso. Mamma mia, esatto. La banca dei movimenti. Via per prelevare. Però c'è posto per tutti. Era ora. Bene. La banca del compagno. Esatto. Comunque, la settimana scorsa era stata occupata una polisportiva da parte dei ragazzi e le ragazze della palestra, che si allenavano appunto nella palestra dell'Edera, e per cui diciamo una doppietta in una settimana, che già di per sé è comunque un segnale, come dire, un risultato importante e bello. Certo. Sì. Questo spazio, diciamo, è ovviamente molto diverso, beh, forse da Roma non è molto, è un po' più difficile rendere l'idea. Comunque lei della Scott era una sorta di villa di inizio Novecento, con un ampio giardino, è stato uno squat, quindi anche abitato per quasi 5 anni. Questa appunto invece è una banca, quindi ha vetrine sulla strada, è sicuramente strutturalmente un luogo molto diverso, per cui sicuramente porterà anche a strade molto diverse, che però è anche interessante intraprendere. Sicuramente quindi non sarà, come dire, la fotocopia dell'Edera, ma sarà qualcosa di decisamente diverso, anche se diciamo il gruppo di occupazione in parte era dell'Edera, in parte è nuovo. Anche questo sicuramente è interessante, dove si è, come dire, riconglomerato durante le settimane e i mesi dopo lo sgombero. Per cui diciamo le intenzioni sono sicuramente portare avanti le lotte sul territorio che erano nate all'interno dell'Edera, tra cui quella contro il carcere. Peraltro domani c'è un corteo qua, sempre in quartiere, che finisce al carcere delle Vallette. E poi, insomma, controcultura, ovviamente, altre lotte di quartiere come quella contro il caro bollette, e poi insomma vediamo anche che cosa di nuovo, totalmente nuovo, nascerà. Ottimo, e grazie per averci anche aggiornato per l'iniziativa di domani. Adesso infatti lo lasciamo detto a chi ci starà domani, insomma, di chiamarvi, se vi va facciamo una corrispondenza. Certo, mentre volentieri. Mentre che siete. E nel frattempo infatti aggiungiamo insomma che i microfoni sono sempre aperti e insomma chiamateci in qualsiasi momento e soprattutto vi veniamo a trovare presto, quindi dai forte. Dai, vi aspettiamo. Dai, certo. In coda per il banco. Assolutamente. Beh, cioè, senso, non ce la possiamo far mancare, assolutamente. Io però faccio solo la coda, perché è arrivato lo sportello, lo guardo e poi vado via, perché... No, ma non ti preoccupare, cioè, ce n'è anche per te. Ah, benissimo. Bene. E poi sicuramente... Ci sentiamo. C'è una striscione qua fuori alla banca che dice oggi si sbanca. Oh. che bello, un po' di ironia ci vuole. E poi ci sentiamo anche sicuramente per Scarcelanda, perché insomma l'agenda che la radio produce tutti quanti gli anni contro i carceri praticamente sta per uscire, è pronta, quindi per il momento ti ringraziamo e poi ci aggiorniamo insomma in un altro momento, quindi dai, a trovare, vi portiamo le Scarcelande, dai. Ciao, grazie, sì. Ciao, grazie. E nel frattempo vi facciamo sentire lo spottino di Scarcelanda e appunto che è anche quello facciamo sentire pure lo spottino del 31 dicembre. È anche quello del 1° dicembre, perché c'è anche Alfredo ancora nel sciopero della fame. Certo, quindi nel senso sicuramente li facciamo sentire tutti quanti, piano piano facciamo tutti quanti gli appuntamenti. Nel frattempo questa la rimandiamo da capo e poi ci risentiamo. Nel frattempo pure... ci dicono che è partito il corteo Aurora. Aurora, perfetto. Dai, accattateva la Scarcelanda.